A sorpresa, Luciana Picella, ufficio stampa, sorride, ma in questo caso c'è poco da ridere perché è in veste di direttrice artistica. Grazie della disponibilità e grazie del bellissimo regalo che mi hai fatto, non vorrei che fosse un messaggio subliminale, è una tisana per il ventre piatto, ma non ne ho bisogno ovviamente. È una tisana per il ventre piatto, ma ovviamente la puoi era per fartela regalare a qualcuno, non era assolutamente per te che sei in splendida forma, abbronzatissimo, ecc. Perfetto, abbiamo cominciato benissimo la nostra conversazione, no, a parte queste celli. È un festival eterogeneo e pieno di contenuti, sono 3 giorni che sembrano 300 e non ovviamente di lunghezza ma proprio di contenuto culturale quanto mai interessante. Sarai all'interno della rubrica che porta in scena, cioè a teatro, e però abbiamo parlato di letteratura, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di motivi di aggregazione, abbiamo parlato di cibo, ma è sotteso che teatro è sempre, secondo me, all'interno di tutto ciò. Ci sono spettacoli, ci sono nomi importanti anche ed è assolutamente un palcoscenico. Sì, è vero, anche perché insomma ogni presentazione di libri si trasforma solitamente in una piccola performance, non soltanto con autori come Teresa Cinque, che è abituata proprio ad essere una monologhista, prima ancora che scrittrice, ma mi viene in mente ovviamente Giorgio Comaschi, che come sappiamo insomma sui palcoscenici ci vive. Marilu Oliva è diventata una bravissima one woman show, come la prendo in giro, insomma sì. La volontà è proprio quella insomma di trasformare ciascuna presentazione di libri in un piccolo spettacolo, insomma. Sarò io sul palco a presentare i vari autori e questo mi fa sempre... Direttrice artistica. Mi fa sempre enormemente piacere perché è una scusa per leggere lavorando, per essere pagata per leggere, è una cosa straordinaria. Quindi. E poi insomma ci saranno anche momenti teatrali perché c'è Gabriella Germani il sabato sera, che è la serata così tradizionalmente dedicata allo spettacolo teatrale, e in qualche modo anche lo show musicale di Teo Ciavarella e di Scraminarini è un racconto, perché è un racconto appunto di un'amicizia, di un sodalizio artistico che è stato lunghissimo. Poi ci sarà anche una piccola sorpresa a fine serata con Giorgio Comaschi, che sarà anche lui sul palco. Si comincia venerdì 24, si comincia come? Si comincia con uno spettacolo teatrale con Carlo De Ruggeri, che tutti conosciamo come il cameraman sfigato di Boris, della leggendaria serie Boris, che qui invece si presenta con un monologo molto, molto bello e molto intenso sulla vita e sui motivi per essere felici, e credo che insomma in questo momento storico ciascuno di noi si trova piuttosto disorientato, e quindi ricordarsi anche di quali siano i momenti che fanno la vita degna di essere vissuta sia importante. Si prosegue il sabato con una bellissima collaborazione che abbiamo attivato con l'archivio storico Olivetti, di cui siamo molto fieri. Il manifesto di condimenti è da qualche anno, sul manifesto di condimenti da qualche anno campeggia una macchina da scrivere, la leggendaria lettera 22 di Olivetti. L'archivio Olivetti ci permette di così esporre alcune delle stampe di manifesti pubblicitari storici del Novecento, e ci sarà la presentazione di un libro molto bello sulla storia di Olivetti, da Camillo fino ad arrivare a De Benedetti e Colaninno, quindi all'Olivetticidio, come viene detto nel libro, sulla storia appunto di questa enorme azienda e sui valori che l'hanno accompagnata, e su questa straordinaria avventura imprenditoriale che veramente non ha eguali, nonostante molti oggi si professino olivettiani senza esserlo. A parole, infatti, più che a fatti. Si conclude domenica? Si conclude domenica in musica, come dicevo, appunto con Come profondo il jazz, un concerto omaggio a Lucio Dalla. Non sono solo i 10 anni di condimenti, sono anche i 10 anni della scomparsa di Lucio Dalla, appunto con Teo Ciavarella e con Iskra Menarini, che sono stati due dei suoi collaboratori più preziosi e longevi. E quindi, insomma, si mescoleranno le note delle canzoni di Lucio Dalla, quelle del jazz che lui amava, come clarinettista mancato. Ma lui un ottimo clarinettista. Sì, poi si raccontano le varie gli scazzi, i litigi con Pupi Avati. Sì. Quindi, insomma, personaggio non certamente, diciamo, banale. No, ecco. Assolutamente. Quindi sarà una bella serata, insomma, l'insegna di una nostalgia dolce. Bello. Io ti ringrazio tantissimo e buon festival, Luciana. Grazie a te, William. Grazie a Radio Città Fujiko. È stata così tragica.